Europa 24. Non lasceremo sola l'Italia, forniremo tutti gli aiuti a nostra disposizione. Ha parlato così poco fa il presidente della Commissione Europea Juncker. Siamo tutti italiani, ha detto, viva l'Italia. Un saluto da Anna Migliorati. Dunque arriva la solidarietà anche da Bruxelles in queste ore per il terremoto che ha colpito, come sentivamo, zone isolate anche dal maltempo. Le parole del presidente della Commissione nella plenaria al Parlamento di Strasburgo, che dopo le schermaglie politiche per l'elezione ieri del suo presidente, riprende nel concreto i lavori in questo 2017. E Juncker ha fatto una promessa. La Commissione ha proposto di riformare le regole di Dublin en instaurant. Un appello solenne, bisogna concludere la riforma del meccanismo di Dublino, dice Juncker, entro il termine della presidenza di turno maltese, dunque entro giugno, e aggiunto vorrei che un'agenzia per l'asilo diventasse in fretta operativa, ne va della credibilità dell'Europa. Questo non toglie che però le tensioni tra gli Stati europei restano, pesano anche a Bruxelles le schermaglie tra Berlino e Roma sul Dieselgate e, come sentivate, la cancelliera Merkel e il premier italiano Gentiloni si sono incontrati proprio a Berlino. Allora sentiamo Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. La conferenza stampa appena conclusa, occorre rilanciare l'Unione Europea pensando alle sfide che ha davanti su crescita, lavoro, investimenti, migranti e difesa dei nostri principi. Così il premier Gentiloni, secondo il quale non si può dare la sensazione che in questo mare in tempesta l'Europa si muova a corrente alternata. È su questo terreno, ha detto il premier italiano, che Germania e Italia condividono una visione comune, così come anche sui migranti, tema sul quale Roma e Berlino, dice, hanno confermato un impegno comune. Sentiamo. Dobbiamo lavorare insieme in Africa, Niger, moltiplicare i nostri sforzi per la stabilizzazione, per le intese possibili sulle migrazioni in Libia. Come ho detto a Angela, proprio in questi giorni il governo italiano sta promuovendo una politica sulle migrazioni più attiva e più impegnata, perché dobbiamo far fronte a un contesto difficile. Si parla spesso di Europa a due velocità, io direi che c'è un'Europa a due rigidità, ha lamentato ancora Gentiloni, troppo rigida su alcune cose, troppo flessibile su altre, e una di queste è l'immigrazione, mentre per la Merkel non c'è ancora una soluzione sostenibile sull'immigrazione e non tutti i paesi europei condividono le stesse responsabilità. Altri temi sul tavolo, l'inizio dell'era Trump, la Brexit e naturalmente le polemiche su FCA al centro da giorni di rimpalli e accuse tra Roma e Berlino dopo la dura presa di posizione del ministro dei trasporti tedesco. Ci sono state alcune polemiche, ha detto Gentiloni, sulle emissioni di alcuni veicoli, ma io ho ribadito in tutta amicizia che sono questioni regolate dalle leggi che attribuiscono alle singole autorità di omologazione il compito di effettuare i test. Noi decidiamo per ciò che riguarda e i tedeschi decidano per loro. Insomma, ci sono regole europee, ognuno rispetti le sue. E per il momento è tutto. Grazie allora ad Alessandra Schepisi. Intanto dicevamo, dopo le elezioni di ieri, questa mattina con la cerimonia ufficiale, il cambio di consegne con il suo predecessore, Antonio Tajani ha preso ufficialmente posto sulla poltrona di presidente del Parlamento europeo. I want to be a president building bridges. Voglio essere un presidente che costruisce ponti e che lavora con ogni gruppo e ogni membro di questo Parlamento. Queste le parole del neopresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nel passaggio formale di consegna con il presidente uscente, Martin Schulz. Abbiamo bisogno di stabilità, ha aggiunto, abbiamo bisogno di lavorare per il futuro dell'Unione europea. Il più caro amico politico di Antonio Tajani non è certo il mio più caro amico, ma tra noi abbiamo sempre collaborato, ha detto Schulz. Chiaro il riferimento a Silvio Berlusconi e a quel capò pronunciato al suo indirizzo nel 2003 dall'allora premier italiano e presidente di turno del Consiglio europeo nella plenaria di Strasburgo. Eletto presidente superando nel testa a testa al ballottaggio l'altro candidato italiano, il socialista Gianni Pittella, con Tajani, PPE, l'Italia conquista l'aula di Strasburgo 38 anni dopo Emilio Colombo, in un momento in cui non mancano le frizioni tra Roma e Bruxelles su vari fronti, dalla flessibilità nei bilanci alla crisi migratoria. Ora restano da definire i nuovi o vecchi equilibri per le altre istituzioni dell'Unione, oggi tutte presiedute dai popolari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora ci fermiamo qui, ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa che vi aspetta, come sempre, questa sera ad Effetto Notte. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.